un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 8 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 in questa mattinata insanguinata dai fatti di Istanbul, in questa mattinata dove insomma ci siamo svegliati anche con questo accordo in parte contraddittorio tra Unione Europea e Turchia per quello che riguarda i rifugiati. Siamo qui come ogni settimana per raccontarvi l'altra Europa, non quella strettamente politica, non quella strettamente legata all'attualità che viene narrata minuto per minuto qui da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista per raccontarvi l'Europa delle possibilità, delle opportunità, delle storie, dei progetti. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo le coordinate euronetplus.eu oppure radio24.it, i nostri siti di riferimento da dove poter poi riascoltare e scaricare il podcast della puntata, oppure chiocciola Euronet Plus R24 o chiocciola Federico Taddia, il mio account personale, per trovarci su Facebook e Twitter e lì poter leggere tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo viaggiando insieme alla cucina. Hallo, wir sind über den Tellerrand und wenn ihr uns bereits kennt, dann wisst ihr, dass wir schon seit 2 Jahren durch unsere Kochkurse und unsere Community Events Begegnungen zwischen beheimateten und geflüchteten Menschen in Deutschland schaffen. Bereits in 20 Städten wird über den Tellerrand gekocht und jetzt wollen wir Europa erobern, machen unsere Küche mobil und schicken einen Container auf Reisen. Cucina in fuga, Kitchen on the Run, è il titolo di un progetto europeo che parte da Bari in queste ore, un progetto di cucina mobile nel segno dell'accoglienza, una cucina mobile appunto che in queste settimane, dal 17 marzo al 9 aprile, si trova a Bari per poi spostarsi attraverso l'Italia, la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svezia fino ad agosto 2016. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Sofia Brown, studentessa universitaria di Berlino, coinvolta in questo progetto. Ciao Sofia. Ciao. Buongiorno. Ciao. Sei italiano o sei tedesca? Buongiorno. Io sono mezza italiana. Okay. Mia mamma viene dal nord. Ma dove vivi? A Berlino? No, i miei genitori vivono vicino Francoforte. Ho capito. E tu invece vivi dove? A Berlino. Ah, ok, perfetto. Sì. E che cos'è Kitchen on the Run? Kitchen on the Run è un gruppo, siamo un gruppo di persone che vuole dare la possibilità a gente dal posto e gente nuova, migranti, ma anche vicini di casa che non si è mai visti, di cucinare insieme, di mangiare insieme, di sì, creare una comunicazione al tavolo da pari a pari. Sì. Di fatto, se ho capito bene, è un container che avete allestito a cucina, questa cucina appunto è mobile, voi vi spostate e date la possibilità di cucinare e mangiare insieme a persone locali dei paesi che toccherete insieme ai migranti, proprio per condividere ricette, sapori e cultura. Giusto questo, sì. E come mai, e l'idea da dove nasce? Come mai proprio la cucina come elemento di unione? L'idea è venuta a Rabea e Jule, sì. Sono Rabea, Jule e Andy, i fondatori di questa idea. Loro due hanno fatto un giro in bicicletta qualche anno fa e pensavano a un bar o una cucina o un ristorante, qualcosa mobile così che si può spostare. Uh-huh. Sì. E poi è venuta l'idea un anno fa, è diventata un po' più concreta e hanno avuto l'idea di fare un container da trasporto con una cucina in mezzo, sì, per poterla trasportare come un container normale. Certo, e l'inaugurazione, appunto la partenza in questi giorni a Bari all'interno del programma generale culture non razziste, una grande festa interculturale nel parco Don Tonino Bello. Kitchenontherun.org invece è il sito di riferimento di questo progetto europeo. E, Sofia, ma anche tu cucinerai in italiano o in tedesco? Ieri ho cucinato, era il primo giorno che abbiamo cucinato insieme per pranzo, così svelto. Ho preparato un pasto mix italiano-tedesco. Beh, insomma, come è andata? Bene, abbastanza bene. È stato un buon inizio, sì. Insomma, di questo lunghissimo viaggio. Grazie davvero, buona strada e soprattutto buon appetito, che mi sembra, insomma, l'augurio migliore per questo creativo progetto interculturale. Ciao e grazie. Grazie. Ciao, grazie, ciao Sofia. Ciao. Vi ricordo ancora kitchenontherun.org, il sito per conoscere nel dettaglio il progetto. Ora un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Stage allo European Union Satellite Center di Madrid. A tutti i giovani laureandi e neolaureati, il SATSEN, European Union Satellite Center, ha aperto le selezioni per il reclutamento di stagisti in diverse discipline nella sua sede di Torrejón de Ardós, vicino a Madrid. SATSEN è il centro che sostiene il processo decisionale dell'Unione Europea nel settore della politica estera e della sicurezza comune. I candidati selezionati prenderanno parte alle attività del centro, redigendo contratti, prestando assistenza sui documenti dell'ufficio, portando avanti ricerche e analisi di fonti del diritto, quali regolamenti dell'Unione Europea, legislazioni, articoli di legge e trattati. Per candidarsi sarà necessario avere una certificazione di inglese superiore al livello B2, un diploma di laurea e una patente di guida. Candidature entro il 31 marzo nella sezione Recruitment del sito satcen.europa.eu. L'altra Europa. Courtship has just begun. Said, young man, have you hold some more? But I tried and I tried and I tried in vain. But I don't believe I breathe one day. L'Europa, le sue fondamenta, il suo DNA, la sua linfa vitale, quante volte ho definito in questo modo l'Erasmus nelle sue mille facce. E adesso andiamo a rispolverare una delle facce meno note, ma secondo me più utili, più divergenti, una faccia che fa capire quanto questo progetto, quanto questo modello possa essere declinabile in dimensioni, in aspetti, in mondi diversi. Sto parlando dell'Erasmus per agricoltori e per capire di cosa si tratta ne parliamo con Matteo Ansanelli, segretario generale di Agia, che è l'associazione Giovani Imprenditori Agricoli. Buongiorno Matteo, ciao e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, salve, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, di cosa si tratta l'Erasmus per agricoltori? Tutti noi conosciamo l'Erasmus, sappiamo che è la possibilità per uno studente universitario di vivere alcuni mesi in una università straniera, studiare, dare esami, frequentare le lezioni. Per un agricoltore invece qual è l'opportunità? Bene, allora diciamo che questo è un programma europeo che riguarda tutto il mondo delle imprese, quindi è un Erasmus per giovani imprenditori, ovviamente anche per i giovani imprenditori agricoli. E in effetti lo scambio si realizza diversamente da quello per, diciamo, gli studi formali, sì. Presso l'università si realizza presso un'impresa e quindi è l'occasione per scambiarsi competenze, per aumentare le relazioni, e quindi per fare meglio il proprio business. Quindi non deve essere uno studente di agraria, per intenderci, ma è già un operatore agricolo che ha la possibilità di andare a vivere una sorta di stage, una sorta di scambio di buone pratiche in una azienda all'estero. Esattamente, e diciamo questo strumento è rivolto proprio a imprenditori neo insediati, quindi sì, imprenditori agricoli che da meno di 3 anni abbiano iniziato la propria attività, ovvero da giovani che sono invece fortemente interessati a fare una start-up, e quindi per farsi meglio un'idea e per organizzare meglio il proprio business possono giovarsi di un periodo di scambio presso un'altra impresa nel territorio europeo. Ovviamente le finalità sono simili a quelle dell'Erasmus per gli studenti, perché lo scopo è quello di aumentare le relazioni, scambiarsi opinioni, pareri, modi di vedere con altri cittadini europei e soprattutto avviare un percorso importante di relazioni fuori dai propri confini. Quindi per un imprenditore che immagina per esempio di proiettarsi in un altro paese europeo o addirittura fuori dall'Europa, e magari insieme anche ad un imprenditore dell'Unione Europea, questi strumenti aiutano ad una fusione intelligente di culture e di interessi, e quindi da questo punto di vista svolgono un ruolo fondamentale nella componente imprenditoriale, quindi nella crescita della componente imprenditoriale, che è la componente che poi dà vita, dà luogo all'impresa insieme, certo, ai fattori classici della produzione. Ci sono numeri già importanti, nel senso che finora sono stati oltre 7.400 gli imprenditori tra senior e junior coinvolti in oltre 3.700 scambi. Immagino abbiate anche già raccolto storie e reso conti di questi scambi. Cosa porta a casa l'imprenditore che vive questa esperienza, ma cosa porta a casa anche l'imprenditore che ospita questa esperienza? Che la CIA, la Confederazione degli Agricoltori, che è la promotrice dell'Associazione Giovani di Agio, l'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, è impegnata su questo strumento da 8 anni, cioè da quando la Commissione Europea, la Direzione Generale per l'Impresa, volle lanciare un primo bando sperimentale. E la CIA vi partecipò e si aggiudicò nella prima call si aggiudicò una prima importante quantità di scambi che poi furono realizzati. E grazie a questo abbiamo collezionato molti casi, molte buone pratiche e casi di successo. Che cosa si porta a casa? Si porta a casa normalmente che l'imprenditore italiano che ha ospitato il giovane, magari ingegnere, sì, elettronico, che quindi aveva un scarso background per quanto riguarda l'agricoltura, ha formalizzato un business, per esempio, per l'innalzamento del livello tecnologico dell'impresa in Italia, oppure il giovane italiano che si è recato in Grecia, per esempio, a fare una bellissima esperienza nel campo dell'allevamento delle lumache, è tornato a casa carico di grande esperienza e soprattutto di grandi relazioni con soggetti che sono già ben posizionati nel mercato europeo. Ecco, queste storie per esempio sono visualizzabili sulla pagina principale del sito dell'Unione Europea, della DG Agri, appunto il sito erasmusentrepreneur.eu, ma è facilmente raggiungibile scrivendo su un qualunque motore di ricerca Erasmus per imprenditori, e si arriva in questa pagina che peraltro è anche nella versione italiana, sì, e qui ci sono dei casi in filmati, ci sono proprio storie di successo e testimonianze in video. Sarà bello per chi ha interesse e volontà di intraprendere questo percorso. Di avere un assaggio per condividere appunto quelle che sono. Sì, è un grande assaggio. Quindi perfetto. Si potrà cogliere quella che è la filosofia di questa iniziativa. www.agia.it, altrimenti che è il sito dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli, o.cia, che è la Confederazione Italiana Agricoltori. Tutti questi link anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Grazie davvero, Ansanelli. Buona giornata, buon sabato. Grazie a lei, arrivederci. Europost-it. Info Day nazionale del programma URBACT 3. Fate parte di un'amministrazione cittadina e siete alla ricerca di fondi per una strategia di sviluppo urbano? Giovedì 31 marzo in Sala Alessi a Palazzo Marino a Milano si terrà l'Info Day nazionale del programma europeo URBACT 3. Per l'occasione sarà presentata la nuova call del bando Implementation Network del programma URBACT, rivolto alle città che intendono avviare uno scambio di conoscenze con partner europei sul tema delle strategie integrate urbane. Per informazioni cercate Infoday URBACT sul sito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, anci.it. Questi sono i nostri Europost-it, come sempre potete ritrovare sul sito radio24.it iniziative, segnalazioni, opportunità pescate in giro per l'Europa che potete anche segnalarci. L'indirizzo per contattare la nostra redazione è l'altraeuropa@radio24.it. Ora invece ci colleghiamo con Matilde Teani, che è una studentessa dell'Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design di Lecco. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Your Europe, Your Say, la vostra Europa, la vostra opinione, questo dibattito tra giovani europei che si sta tenendo, forse si è concluso proprio in queste ore a Bruxelles, organizzato dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, una scuola per ogni nazione. L'Istituto di Lecco era la scuola prescelta per l'Italia. Con noi c'è Matilde. Ciao Matilde. Buongiorno. Ti trovi ancora a Bruxelles? Sì, siamo in aeroporto. Perfetto, si torna. Stiamo aspettando per il volo. E tra l'altro, insomma, avete vissuto una Bruxelles un po' animata in queste ore, vi siete accorti di qualcosa? C'erano militari un po' dappertutto e spesso anche la polizia circolava. Quindi, insomma, niente di... Insomma, niente per fortuna di no, grave, no. Però avete capito che la situazione era particolarmente calda. E com'è stato invece questo dibattito? Cosa è accaduto? Cosa è successo? Raccontaci. Niente, abbiamo iniziato la sera di giovedì e sì. Ci siamo conosciuti, cioè tutti i ragazzi delle varie nazioni ci siamo conosciuti e... il giorno dopo invece, cioè venerdì, ieri, abbiamo parlato, ognuno cercava di porsi delle domande, trovare qualcosa su cui avere più informazioni e niente, piano piano ognuno sceglieva quello di cui voleva parlare. Certo, ma c'era un tema, un filo conduttore, un tema portante? Allora, il tema è quello dell'immigrazione. Okay. E a noi è stato chiesto di trovare delle proposte pratiche per riuscire ad integrare meglio soprattutto i giovani e i migranti. Vi siete messi un po' nei panni dei politici, di chi deve prendere le decisioni, di chi deve trovare soluzioni. Qual è stata la difficoltà maggiore? Secondo me ci sono tante cose da risolvere, quindi trovare quella più importante, secondo me è stata la cosa più difficile. Ok. E c'erano posizioni molto diverse tra di voi, nel senso avete anche simulato quella che è l'arrivare, per esempio, a un compromesso o arrivare a una votazione. Come avete fatto a trovare l'accordo finale? Allora, sono state... fatte 10 proposte, sì. E poi ogni ragazzo aveva la possibilità di sceglierne 3 e quindi quella che ha avuto maggiori voti ha vinto. Ok, quindi insomma c'è stata una votazione finale. Sì, una cosa seria. Ok. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Io mi sono sentita parte dell'Europa. Facendo questa esperienza e credo che, insomma, niente, che sia... ognuno ha condiviso le sue esperienze e ovviamente nuove amicizie le porto a casa. Eh sì, insomma, eravate 28 da ragazze dai 28 stati membri, più i 5 candidati, Albania, Turchia, sì. Montenegro, Serbia e Macedonia, quindi veramente un bel pezzo dell'Europa che è sì. e che sarà. Grazie davvero Matilde, a te e a tutti i tuoi compagni, sì, ricordiamo sì. dell'Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design di Lecco. Buon viaggio di ritorno, ciao. Grazie. Ciao. Un Europostit adesso, la pubblicità, poi torniamo in diretta con l'altra Europa. Europostit. Concorso europeo di innovazione sociale 2016. Avete un'idea imprenditoriale legata al tema dell'integrazione sociale? Vi piacerebbe trovare i fondi per realizzarla? La Commissione europea è alla ricerca di prodotti, tecnologie e servizi innovativi che possano supportare il processo di integrazione dei rifugiati. Per questo ha lanciato una nuova edizione del Concorso europeo di innovazione sociale. L'iscrizione è aperta a gruppi, organizzazioni e singoli individui provenienti dai paesi che partecipano al programma Horizon 2020. I tre vincitori riceveranno un premio di 50.000 euro per la realizzazione del proprio progetto. Troverete tutte le indicazioni cercando European Social Innovation Competition sul sito della Commissione europea ec.europa.eu. I progetti dovranno essere inviati entro l'8 aprile. L'altra Europa. This is a song not like the others you know from this band. This is a story not like the others, rages and sand. But it must be told, though you could say so, that it happened in the country that I live in. It's a story of a man named Drew Kelly, kind of fast and out of firm singing. 1907, he was born to a poor German Sinto family. He became a boxer when he was older and the fans nicknamed him Drew Kelly. He was known for the show. Buon sabato ancora da Federico Taddia e ben tornati all'altra Europa. Adesso andiamo alla scoperta veramente di un'altra Europa e lo facciamo insieme a Slavica, il Festival delle Culture Slave 2016 che si sta tenendo a Torino. Un bellissimo programma variegato, divergente, un'Europa bella, un'Europa viva, un'Europa anche drammatica perché si porta dietro storie di contemporaneità anche tragiche. Un programma ricchissimo che potete trovare sul sito polskicocktail.wordpress.com oppure cliccate Festival Slavica su tutti i motori di ricerca. Un festival che avrà un suo momento apice sabato 26 marzo con la presentazione del libro del premio Nobel per la letteratura Dario Fo, che presenterà il suo libro Razza di Zingaro, e abbiamo il piacere di avere qua con noi oggi all'altra Europa Dario Fo. Buongiorno maestro. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono qua. Eccoci. Chi è questo Zingaro che ha raccontato nel suo libro? È una storia legata a qualche anno fa, al tempo in cui stava affacciando un movimento di destra estrema, che dire fascista è ancora poco, stiamo parlando di Hitler e tutto il mailanne che è riuscito a combinare, le stragi, i prigionieri nei campi di concentramento, il massacro a milioni in tutta l'Europa. Mm-hmm. E lei ha trovato questa storia che ha narrato appunto in questo libro di chiare lettere, la storia di un pugile che ha combattuto. Un pugile, bravo, un pugile che fin da ragazzino così si innamora della box, ma la cosa straordinaria è che non ha l'intento nel gestire e nel combattere che dimostrano tutti gli altri distinto, i ragazzini come lui. No, lui danza e scivola quasi davanti ai ragazzi che cercano di fermarlo con affondi, con colpi di ritorno, vi dicendo, con parate, proprio perché ha inventato questa forma di combattimento che lo rende diverso, completamente fuori chiave rispetto a quella che è la box normale. La cosa non può andare giù tranquilla davanti ai dirigenti, soprattutto quelli che provengono dalla politica, proprio perché questo non è la espressione della Germania del tempo. Quindi la sua forza è anche in questo, appunto, in questa, sì, in questa, in questa arte, diciamo, del danzare nel ring. Ma la cosa incredibile è che è un atto, poi ci si accorge dopo, di cultura profonda rispetto alla sua origine, perché è uno zingaro che nel suo modo di esprimersi, soprattutto nelle feste, nei rituali, eccetera, ha una forma di danza che poi vedremo anche riprodotta nella Spagna e poi della Francia del Sud, questo modo di muoversi, di agire rovesciandosi, cambiando dimensione, rotta, volume, peso, ritmo, tanto da stordire chi ne è coinvolto. Maestro, ma visto che appunto in questo festival è un festival delle culture slave all'interno dell'Europa, sì. A lei piace l'Europa? Cosa le suscita la parola Europa? Beh, dovrei dire cosa vuole prima ancora slavo, perché è una cultura straordinaria che è stata invasa anche dagli zingari che venivano dall'Asia, meglio addirittura dalla profonda Asia, e arrivano con i cavalli e con gli strumenti musicali, danzano, cantano, fanno poesia e diventano parte dell'Europa che per secoli li ha accettati. Poi a un certo punto ecco che comincia la reazione razzista di cui parlavamo prima. Certo. Ma è stata proprio una paura forse anche di questa arte, di questa cultura? Di questa forma che usciva dalla logica, dalla loro concezione, che la box era violenza, era potenza, era abbattere il concorrente. E lui dice sempre, io non amo questa box dove ognuno cerca di portare a terra sconfitto, inerte, magari svenuto è meglio, no, io amo lo spettacolo della box, a me interessa il gioco e lo spettacolo. Mentre l'Europa di oggi le piace, maestro? No, al di fuori della box e altri sport, no, non mi piace, perché in verità ci sono gli interessi privati, diremmo, che non è una parola scorretta, ma c'è quella del denaro soprattutto, cioè, è una lotta fra banche, attento, non bande, ma ci sarebbe il caso di dire banche bandite. Maestro, compirà tra qualche giorno, il 24 marzo, 90 anni. Che... 90 anni, tutte le volte che me lo dicono stanno scherzando. È troppo, come si fa a vivere 90 anni? Insomma... E poi avere ancora la possibilità di parlare. Ma poi no, leggevo che ci sono in questo momento oltre 400 compagnie in tutto il mondo che stanno portando in scena i suoi testi, quindi sì. Cioè, 90 anni ma moltiplicati per un sacco di altre vite proprio. È vero, tant'è che con Franca si diceva ogni tanto, guardandoci in faccia, ma dove abbiamo campato gli altri anni che ci permettono di elencare tutto quello che abbiamo combinato, perché non ci siamo dentro nel conto. Noi veramente non riusciamo a capire in che tempo, in che spazio abbiamo realizzato certi incontri, viaggi, gli spettacoli, le situazioni anche poco felici, drammatiche, vi dicendo. E siamo un po' perplessi, bisogna che qualcuno ce lo spieghi. Qual è augurio o quale regalo si farà per i 90 anni? La cosa che mi piacerebbe tanto è di vedere soprattutto la mia terra, l'Italia, che esce da questo insieme di interessi sugli affari. L'ha detto anche il Papa più volte: smettetela di pensare davanti a tutto al denaro, al successo degli affari. Ricordatevi che c'è un problema grande prima di tutto, sono coloro che hanno difficoltà a vivere e che voi avete condotto in questa condizione. Non dimenticate, siete voi i colpevoli. Un grazie a Dario Fo, ricordiamo sabato 26 marzo con Razza di Zingaro la sua partecipazione al Festival delle Culture Slave 2016 e lì avrà già 90 anni. Grazie Dario Fo, buon sabato. Un abbraccio, grazie. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. La generazione Erasmus racconta l'Europa. Hai tra i 18 e i 26 anni e sogni di fare il giornalista? Allora attenzione, perché l'agenzia ANSA e il Parlamento Europeo promuovono il concorso giornalistico La generazione Erasmus racconta l'Europa, destinato ai giovani fino ai 26 anni che abbiano partecipato al programma Erasmus e trascorso almeno un mese in un paese straniero. I partecipanti diventeranno inviati dell'ANSA per un giorno, producendo un video di 3 minuti che racconti la nazione che li ha ospitati. I video potranno accogliere anche aspetti politici di cronaca e di costume. Gli elaborati vincitori saranno pubblicati su un sito creato ad hoc da ANSA e i loro autori saranno candidati per una visita al Parlamento Europeo di Strasburgo. I video dovranno essere inviati entro il 15 aprile all'indirizzo europa@ansa.it. Tutte le modalità di iscrizione sul sito ANSA Europa. L'altra Europa. Europa chiama, Argentina risponde, facciamo un volo di un fuso orario, credo di 4 ore, ci colleghiamo con Buenos Aires o Mar del Plata? Buenos Aires, con noi c'è Silvia Manetti, direi dalla voce appena svegliata. Sì, più o meno, scusate. Allora Silvia, dalla Garfagnana, quindi siamo in provincia di Lucca, all'Argentina per questo progetto finanziato dalla Commissione Europea, un progetto che si chiama SCORE, sul turismo di ritorno alle radici, una cosa molto poetica. Chi siete e cosa state combinando? Allora, diciamo che SCORE nasce come proseguo, come riconoscimento di un progetto che si chiama Orizzonti Circolari e che era stato finanziato dalla regione Toscana ed Emilia per promuovere proprio questo turismo di ritorno delle origini. È un progetto ideato dal Parco Appennino Tosco Emiliano in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Garfagnana. Scusate la voce. Ma hai perso anche la voce? Cosa hai fatto? Hai cantato? No, diciamo che qua ci siamo ritrovati in una settimana di piena estate, 30 gradi, con un programma che ci hanno un po' portato ovunque in 5 giorni e la mia voce è così. Scusate. Nessun problema, scusami. No, quindi avete fatto questo scambio, ma perché siete... Diciamo che... tu hai origini argentine e le persone che avete incontrato hanno origini italiane? Allora, tutte le persone, cioè Scora è riuscito, diciamo, per il primo anno in uno dei comuni della Garfagnana, il Parco Appennino, Tosco Emiliano, è riuscito a farsi finanziare dalla regione europea. Quindi i ragazzi che sono venuti in Italia hanno tutte origini nel parco, chi in Lunigiana, chi in Garfagnana, chi in Emilia. Noi diciamo che siamo stati selezionati più per un discorso di lingua e di curriculum a livello di intercambio. Perfetto. Io in particolare però avevo anche un legame affettivo, nel senso che la mia famiglia in parte è emigrata a Mar del Plata. Ho capito, quindi insomma tu avevi un valore aggiunto in più. Però Silvia, fammi capire, nel senso che al di là dello scambio, quindi riportare nella zona giovani i cui nonni provenivano appunto da quelle zone, e voi siete forse anche operatori turistici o comunque formatori, andate là per incentivare questo scambio, ma la finalità ultima qual è? Diciamo è quello di appunto di incrementare, cioè di sfruttare, una parola brutta, però diciamo promuovere questo il turismo di ritorno, nel senso di dire a questi ragazzi, quando cioè, avete degli amici, vengono a Firenze, perché la Toscana, l'Italia è Firenze, Roma, Venezia, parlateli della Garfagnana, parlateli del Parco Appennino, Tosco Emiliano, e diteli che l'Italia e anche questa, che i vostri nonni sono venuti lì, e cioè, è una zona in cui, che merita tutto il rispetto e merita di essere visitata, certo, e promossa. Quindi creare proprio un turismo di ritorno, ma anche un nuovo indotto, quindi usare un po' il passaparola, ovviamente, usare i social, che usare internet per diffondere attraverso questo legame emotivo altre possibili mete turistiche. Esatto. Loro com'è stato il loro arrivo quando sono arrivati loro in visita? Cosa si aspettavano? Cosa hanno trovato? Diciamo che avevano in mente a grandi linee, okay, nel senso che nella loro famiglia comunque si è sempre parlato di Italia e in particolare del Parco dell'Appennino, però si sono ritrovati, cioè qua è totalmente un altro mondo, cioè, hanno distese infinite di niente, città enormi, si sono ritrovati in Garfagnana, che nello specifico proprio nel parco, che diciamo è fatto da boschi, da piccole casette in quella, da paesini, cioè, comunque si sono ritrovati a casa, però cioè, l'impatto è stato cioè, di ritrovare una seconda famiglia, cioè, loro nella loro mente ce l'avevano il ricordo, hanno concretizzato quello che era ancora vago. Certo. Silvia, e Astor Piazzolla in tutto Piazzolla. Questo che c'entra? Diciamo che è stato un punto aggiuntivo a questo progetto, perché si sono scoperte le origini garfagnine di Astor Piazzolla. In particolare la mia famiglia viene da Massa Sasso Rosso, che è il paese di origine della mamma di Astor. Il mio cognome è Manetti, come la mamma. E quindi diciamo che questo progetto dell'Unione dei Comuni punta alla valorizzazione e alla riqualificazione del paese di Massa Sasso Rosso, per promuovere anche questo tipo di turismo. Cioè, quella argentina è molto sentita, Piazzolla, e ce ne dobbiamo rendere conto e cercare di promuoverlo. Assolutamente. È stato utile per voi anche passare queste giornate lì in Argentina? Avete capito meglio come poter promuovere il vostro territorio? Sì, diciamo che abbiamo capito che qua le possibilità sono veramente tante, nel senso che l'italianità, passatemi il termine, è sentita ancora veramente forte. Cioè, noi quando si camminava per strada ci sentivano italiane, e quindi la si mettevano a chiacchierare, io conosco questo, mia nonna, mia madre o mia sorella di radici, radici italiane, quindi cioè, è un mercato, nel senso è molto aperto come prospettiva, cioè, sono molto disposti a scoprire l'Italia, vogliono conoscere di più, tantissime persone sanno capire l'italiano e molte lo parlano già, quindi cioè, è un sentiero semispianato, diciamo, verso il nostro turismo. Insomma, c'è un potenziale, come tu ben hai detto, molto sviluppato, molto positivo. Diamo un paio di siti: parcoappennino.it, che è il sito del parco coinvolto ovviamente in questo progetto, oppure il sito Unione Comuni della Garfagnana, che è ucigarfagnana.lu.it. Silvia, torni a dormire ora? Sì. Sì, no. Posso aggiungere che c'è anche una pagina Facebook, certo, per seguire il progetto SCORE. Sì, se digitate SCORE appariamo e potete seguirci, fare like. Perfetto, sia nella versione italiana che quella argentina. Sì. Grazie davvero Silvia, ciao. Esatto. Ciao, ciao, salutaci tutti i tuoi compagni di viaggio. Eccoci qua, insomma, questa è l'altra Europa, avete sentito, Dario Fo, l'Argentina, Erasmus per agricoltori, insomma, tante facce di questa Europa che comunque ci piace raccontare. Un grazie alla squadra, Paolo Corleone oggi alla parte tecnica, Claudia Scattone invece in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa è radio24.it, se volete farvi vivi via mail, oppure mi trovate su Facebook e Twitter, il mio nome lo conoscete, Federico Taddia. Ancora grazie, ci ritroviamo qua sabato prossimo. Ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.